Siamo con Massimo Righetti di Mariposa Cinematografica per parlare del film 1945 di Ferenc Tarok in uscita in sala il prossimo 3 maggio. Massimo, ben trovato. Grazie anche a voi. Ciao Federico. Lo raccontiamo brevemente? Sì, allora, cercando di non spoilerarlo, siamo nell'agosto del 1945, appunto, e la guerra praticamente volge al suo termine. In Ungheria i nazisti sono stati sconfitti e cacciati, e le popolazioni stanno riprendendo praticamente la vita che avevano prima della guerra. Sullo sfondo arrivano i russi, che in quel momento vengono considerati come una forza di liberazione. E questo diciamo, in questo momento è l'ambiente, fino a che a un certo punto alla stazione arriva un treno e scendono due personaggi, un anziano e un ragazzo più giovane, ebrei. E da quel momento in poi incominciano una serie di situazioni, di paure, perché questo film racconta praticamente anche soprattutto la connivenza della popolazione civile alle persecuzioni della popolazione ebraica, sfruttando anche in alcuni casi a volte le deportazioni per appropriarsi delle case, dei beni, delle popolazioni cacciate via. E quindi si sviluppa tutta questa storia in questa atmosfera del villaggio prima idillica e adesso molto più drammatica, perché non sanno il vero motivo perché sono arrivati questi due personaggi in questo paese. Questo più o meno è Sì. Senti, diciamo, l'inizio del film. un film che ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali. Sì, è stato presentato in tantissimi festival, ha vinto tanti, tanti premi, è stato presentato anche al Festival Berlino nella sezione Panorama qualche anno fa. È proprio lì che ho avuto la fortuna, insomma, di vederlo e quindi di incontrare poi la produzione. Ne ha vinti tantissimi in molti festival sparsi da Washington, San Francisco, Vienna e via via, insomma. Dell'autore cosa sappiamo? L'autore sappiamo, noi dal punto di vista italiano sappiamo poco, Sì. nel senso che è come se fosse per noi. Credo che soltanto il penultimo suo film sia passato, ovviamente, in una produzione indipendente, un'istituzione indipendente in Italia, che era No Man's Island. È il suo sesto film, ovviamente è nato in Ungheria, ha studiato dall'Università dell'Arte Drammatica ed Accademia in Ungheria, e si è fatto praticamente le ossa prima in patria e poi comunque uscendo fuori anche dai confini del suo paese. Molto più conosciuto in Europa che non in Italia. Speriamo che, insomma, da giovedì 3 maggio Ferenc Tarok sia più conosciuto anche qui in Italia. Diciamo che questa nuova cinematografia ungherese sta avendo dei frutti veramente prestigiosi. È partito con Il figlio di Saul, che forse è il film ungherese più conosciuto qui in Sì. Italia, in cui c'è questa ondata di cineasti ungheresi che raccontano quel periodo storico in un modo narrativo molto diverso e sicuramente molto più coinvolgente. Si tratta di una produzione importante in un bel bianco e nero. Sì, il bianco e nero è fondamentale, anche perché appunto la storia va avanti, viene supportata anche dalle immagini, dai particolari, e ogni cosa non è lasciata al caso, e c'è questo bianco e nero che è comunque meraviglioso, insomma, e viene utilizzato per rafforzare la struttura narrativa. Il direttore di fotografia è un direttore di fotografia molto famoso, molto bravo, non so se vi ricordate Jacopo il Bugiardo oppure Il Fantasma dell'Opera. Su questo film c'è anche la direzione artistica di una persona che ha fatto la direzione artistica sul Figlio di Saul, insomma, quindi la produzione ungherese ha preso, diciamo, il meglio della cinematografia ungherese per fare questo Senti, volevo chiederti anche Quali sono gli elementi del film che più ti hanno convinto? Sicuramente allora, dal punto di vista fotografico, la prima cosa che a me ha colpito è stata proprio la rappresentazione con questo bianco e nero e l'attenzione e la cura dei dettagli. Parla di un periodo storico di transizione dell'Ungheria che è sconosciuto anche agli ungheresi stessi, perché basti pensare che in quel periodo festeggiavano la liberazione come se fossero liberati, quando invece stava per iniziare un altro periodo profondo e insomma difficile per la storia ungherese. È sicuramente la storia appunto di questo atto di accusa nei confronti anche della popolazione civile in Ungheria, ma penso in tante altre parti del mondo, di persone che hanno approfittato comunque di questa guerra, di questa deportazione per i propri interessi. Quindi nel momento in cui è bastato un semplice elemento per far partire tutta una serie di catene di eventi che ha portato, e quindi vediamo ogni personaggio che ha il senso di colpa, l'altro personaggio che invece ha l'odio, un altro personaggio che vorrebbe aiutarli, insomma è come se fosse un trattato buddista con i famosi 10 mondi, cioè vediamo tutti i mondi dalla Sì. collera al pentimento, e quindi l'ho trovato molto, molto profondo, ma comunque che viaggia in queste ore e mezza molto, molto tranquilla e molto fluida. Credo che sia un film storicamente importante e comunque un film che vale la pena andarlo a vedere al cinema. Sì, il dato più importante, a mio avviso, sono riuscito a vederlo, racconta di come le deportazioni, lo sterminio degli ebrei, siano stati anche favoriti da un ambito in cui anche la popolazione civile ha dato il suo contributo in qualche modo. Esatto, infatti è proprio di questo che vuole parlarne. Sì. E come dicevo prima, è proprio la nuova cinematografia ungherese, dal figlio di Saul a questo, che comunque vogliono puntare a raccontare l'olocausto in una maniera diversa, Sì. non, il, non la, quello che fino adesso abbiamo visto in tanti film pregevolissimi, eccetera, ma qui vanno a vedere un po' più sullo specifico, sulle relazioni umane. E vedere che insomma ci sono state, come dicevi te, gran parte delle persone che hanno comunque tratto beneficio da questa deportazione. Sì, proprio un clima, sì, Sì. soprattutto un ambito che ha reso possibile tutto questo. Massimo, che uscita sarà? Allora, Mariposa Cinematografica è una società di distribuzione indipendente, siamo tra gli indipendenti comunque, siamo conosciuti, ma sarà una distribuzione appunto indipendente. Lo facciamo in collaborazione con Bardo & Lippo, che è una società di distribuzione legata al Cinema Beltrade di Milano. E quindi faremo sicuramente un'uscita nelle città, nelle grandi città, Torino, Milano, Roma, Firenze, Ancona e via via. E poi andremo più in profondità qui sulla provincia, organizzeremo degli eventi. Specificatamente per la prossima settimana noi avremo il regista qui in Italia, grazie al sostegno dell'Accademia Ungherese a Roma e del Consolato di Ungheria a Milano. Quindi faremo una serie di tappe al Cinema Beltrade a Milano e al mitico Apollo 11 di Roma, e quindi con incontro anche stampa e anche con il pubblico. Benissimo. Allora ricordiamo l'uscita del film 1945 di Ferenc Torok in sala a partire dal 3 maggio per Mariposa Cinematografica. Massimo, un abbraccio e a risentirci Grazie, presto. a presto, grazie a tutti, ciao.